Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La macchina frigorifera è stata concepita, come ben sapete, per raffreddare il cibo, ma la sua capacità di sottrarre calore ad un ambiente già freddo e riversarlo in un ambiente più caldo può essere sfruttata anche per ottenere un sistema di riscaldamento molto efficiente, la cosiddetta pompa di calore. Questo per dire che a volte una nuova applicazione nasce dalla capacità di guardare in un altro modo a qualcosa che magari abbiamo sotto il naso da sempre. Ed è il caso dell'idea di cui parliamo oggi. Un apparato che si chiama Awa Modula, presentato poche settimane fa all'Expo e che produce acqua dall'aria. Ne parliamo con la professoressa Anna Magrini del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell'Università di Pavia, che ha lavorato, si può dire, al cuore del progetto, proprio alla macchina termodinamica che ci sta sotto. Buonasera Magrini. Buonasera. Allora, senta, parliamo in realtà di un gigantesco deumidificatore che però voi avete adattato a un altro scopo. Allora, ci spieghi un po' come funziona, di che cosa si tratta? Sì, la macchina prende l'aria esterna, quindi aria atmosferica, la raffredda fino ad arrivare alla temperatura di condensazione dell'acqua contenuta sotto forma di vapore e a questo punto continua a raffreddarla in modo tale da ottenere più acqua possibile. È un'esperienza che abbiamo fatto tutti, quella di trovare le goccioline d'acqua sul vetro d'inverno, no? Il vetro è freddo, l'aria è piena di vapore acqueo, quella dentro casa, e questo vapore condensa lì. Voi fate un'operazione del genere naturalmente in modo un pochettino più sofisticato. Quali sono le applicazioni e dove soprattutto pensate di utilizzarla? Inizialmente il progetto è nato per realizzare un modulo che potesse essere contenuto in un container per essere trasportato in una postazione qualsiasi del mondo in cui c'è necessità di acqua potabile, in modo tale da poter fare questo processo di raffreddamento dell'aria, di condensazione quindi dell'acqua e di potabilizzazione, che questa è una fase molto importante, dell'acqua prodotta per poterla rendere bevibile. Ecco, perché voi tirate fuori quasi acqua distillata, immagino, da questo processo. Come funziona? Sì, praticamente è acqua condensata, quindi comunque è acqua priva di sali minerali, acqua che comunque deve essere in qualche modo trattata perché ci possono essere residui che non indesiderati. Pericolosi, quindi comunque diciamo deve essere trattata in modo molto molto accurato. Però poi dopo questo trattamento, che si può benissimo fare, si realizza con attenzione, ma si realizza bene, si può rendere bevibile, non solo, perché può essere anche utilizzata per scopi farmaceutici o ospedalieri, dove l'acqua deve essere particolarmente pura e deve essere particolarmente controllata. Ecco, pensiamo classiche situazioni di emergenza dove magari non solo salta l'acquedotto, c'è bisogno di acqua da bere, ma c'è bisogno anche di un ospedale da campo che abbia una fonte di acqua, qui sì, distillata, direi sterilizzata in questo caso. Molti dei nostri ascoltatori, immagino, se lo stiano chiedendo, la deumidificazione infatti è una delle pratiche tipiche anche della climatizzazione. Lei ci ha già parlato di raffreddare dell'aria, insomma è evidente che c'è un rapporto, no, fra la produzione di acqua e la climatizzazione, sul quale voi state lavorando naturalmente. Sì, senz'altro, perché gli sviluppi di questa tecnologia sono interessanti soprattutto per il settore edilizio, dove si utilizzano impianti di condizionamento, si utilizzano già impianti di condizionamento e di riscaldamento invernale e si può associare questa tecnica alla climatizzazione e realizzare degli impianti integrati che possano, oltre che produrre aria calda, aria fredda, acqua calda sanitaria, vabbè, anche acqua da bere. Pensiamo agli alberghi. Lei mi diceva prima che quello è un settore elettivo di applicazione. Sì, senz'altro, l'albergo sicuramente, perché comunque richiede esattamente ha tutte queste necessità, quindi richiede aria fredda, aria calda, acqua calda sanitaria e comunque il fatto di poter avere acqua potabile a disposizione è un aspetto molto importante, soprattutto in quelle zone in cui l'acqua, diciamo, corrente non è così di qualità come quella che possiamo avere noi anche in Italia, ecco. Va bene, grazie Anna Magrini. Prego, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.